Le richieste che i lavoratori hanno, diciamo così, espresso in queste settimane si riassumono, diciamo così, in tre temi, cioè l'aumento del salario rispetto al resto del gruppo Fiat, cioè attraverso l'equiparazione, una diversa articolazione dei turni per il superamento della doppia battuta cosiddetta e il miglioramento delle condizioni lavorative attraverso un cambio di registro per quanto riguarda le azioni repressive che la Fiat ha messo in campo in questi anni per avere il controllo della fabbrica. Quindi noi su questi temi aspettiamo le risposte dalla Fiat che, come dicevo, ieri sera sono state inadeguate e quindi crediamo opportuno che la Fiat si impegni su questo terreno per dare risposte concrete a tutti i lavoratori che da 20 giorni, da 15 giorni ormai sono lì davanti ai cancelli a scioperare. Noi ovviamente con tutto il coordinamento saremo lì per aspettare delle risposte diverse da quelle di ieri sera, che siano diciamo, adeguate ai bisogni dei lavoratori. In tutti i casi noi proseguiremo. Per quanto riguarda le azioni di lotta da mettere in campo a sostegno di questa vertenza, continueremo con il percorso democratico avviato sin dall'inizio e confermato ieri mattina dall'assemblea di tutti i lavoratori davanti ai presidi, e quindi se le risposte continuano ad essere inadeguate, nell'assemblea permanente convocata davanti ai cancelli decideremo le lotte man mano che la vertenza si sviluppa. Quindi sarà un percorso democratico che ci porterà fino alla fine se ci sarà un accordo e quindi saranno i lavoratori insieme a noi, insieme al coordinamento a decidere passo passo i tempi della vertenza.